primo episodio di Nizio Segone Ask the Maker, il nuovo programma nato da una costola di Nizio Segone Triforce. Siamo solo in due oggi, c'è Vario Punk e Pietro Turri, sono qui. Scar the Pumpkin Claudio Turri. Con ardore dagli anni Ottanta come sempre. E l'ospite speciale di questa puntata, il maker che metteremo sotto torchio, è il celebre Dark Leo della Lionsoft Games. Ciao a tutti. Ah, eccolo. Purtroppo abbiamo perso Rikska e Gira nel percorso. Siamo solo noi due a metterti sotto torchio oggi. Di solito eravamo in quattro. Comunque. Bene. Per chi non lo Sono pronto a conoscesse. tutto, dai, No, proseguiamo. di. No, sono pronto a tutte le vostre domande, ci mancherebbe. Ok, allora ti presento come ti conosco io. Dark Leo è, per quello che ne so io, il game maker di game maker più prolifico che abbiamo in Italia. Ha Diciamo che porta un po' alla ribalta i vecchi giochi, anni 80 e 90. 10 anni di carriera e qua, a certe volte quando provo i suoi giochi rimango a bocca aperta e mi chiedo: ma come cavolo ha fatto? E quindi Dritto, allora. adesso lo scopriremo chiedendoglielo, perché adesso la prima domanda è: quando hai iniziato 10 anni fa? Come hai iniziato? Con quale idea hai iniziato? E perché hai iniziato il game making? Allora, guarda, io ti dico, sempre come vabbè, anche ho scritto sul blog di recente, cioè ho sempre avuto questa idea fissa di voler fare comunque un gioco mio, cioè è sempre stata una mia idea proprio fissa, anche perché da piccolo rompevo sempre le scatole, comunque anche con i miei amici quando giocavamo un gioco ero sempre lì a dire: ma perché questo non l'hanno fatto così? Ma perché non hanno aggiunto un livello così? Allora, un po' tutti quelli che mi conoscono sapevano già della mia fissa per questa cosa qui. Game Maker l'ho scoperto quasi per caso, diciamo, perché prima ho provato un po' di programmi del genere, però erano molto limitati, quindi non riuscivo a esprimere quello che volevo fare. Game Maker è stato il primo, cioè mi è capitato su internet proprio quasi per caso la versione 1.0, quindi ti lascio immaginare rudimentalissima, proprio la prima. Siamo Allora, alla prima, ove. e come avrai anche capito dal sito, un po' dai giochi che faccio, sono un fan, ma un fan proprio di vecchia data, da quando esiste, di Sonic. E quindi ho detto: quale modo migliore per provare a scarabocchiare se non con Sonic, che comunque lo conosco, eccetera, eccetera. Il primo progetto, infatti, come avrei avuto modo di vedere, ma ti sconsiglio di giocarlo perché è un concentrato di bug incredibile, è Sonic Evolution. Infatti, quello, ma ti dico, era proprio il primo, no, a dirti la verità, è il progetto numero uno, perché il progetto numero zero non l'ho Lo mai sapevo. pubblicato, ti dico la verità, perché era ancora più osceno di quello lì. Ed Quella era era proprio per sempre imparare a capire come funziona il game. Come, scusami? su. Era sempre su Sonic anche il progetto zero. No, il primo era proprio forse l'unico gioco che ho realizzato interamente con le mie sprite. Perché allora il primo progetto che ho fatto era, cos'era, il 2002, credo, sì, all'inizio del 2002, non avevo idea di dove cercare le sprite, non avevo idea di dove cercare le musiche, eccetera. Quindi mi arrangiavo da solo, ma era venuta fuori una cosa impubblicabile, ti dico la verità, e quindi è finito un po'. Avevo fatto, era un gioco di piattaforme a schermo fisso, no? Senza scorrimento, che tra l'altro lo scorrimento l'ho scoperto anche dopo, all'inizio, a schermo fisso, ma era, cioè, avevo fatto tipo una cinquantina di livelli, poi mi sono proprio sfogato con quel coso lì, poi vabbè, poi è stato accantonato assolutamente, mi sono dedicato a 50 qualcosa di un po' più. livelli. Eri già sulla buona strada. Aveva un titolo il gioco, è rimasto così. Sì, Come sì, sì, sì. si chiamava? Ascolta, promettete di non ridere. Diciamo che è uno scoop, tra virgolette. Pensa Ok. qua, pensa di tirarmelo o cose del genere. Si chiamava Zed the Stars Buster. Ed era praticamente una palla blu informe, qualcosa che avevo realizzato io direttamente. Che lo scopo del gioco era raccogliere tutte le stelle di ognuno di questi 50 livelli. E c'erano i nemici con delle routine molto semplici, comunque, però. Cioè, c'era la gravità, che non so se tu hai presente come funziona più o meno Game Maker. Comunque all'inizio, quando parti proprio da zero, non Sì. c'erano tutti i comandi drag and drop che ci sono adesso, quindi dovevi arrangiarti con un po' di codice. E non funzionava proprio magnificamente, ti dico la verità. Quindi ancora peggio di Sonic Evolution, tra l'altro, che ha dei bug anche abbastanza evidenti. Sì. Comunque te l'ho detto, ho iniziato così. non posso dirti per scherzo perché proprio lo volevo fare, non è che ho detto provo a farlo, vediamo, proprio è una cosa che volevo fare e poi niente, non sono riuscito a smettere, era un po' la mia droga, ti dico la verità. Ah, e per fortuna che non hai smesso. Grazie. Ah, beh, beh, abbiamo anche lo scoop, abbiamo... che comunque sai, dal titolo che gli hai dato il gioco mi ricordo un vecchio platform che era sia del Super Nintendo che della Sega, dove eri questo robot, mi scordo sempre il nome. A me fa venire in mente Super Putty del Super Nintendo. C'era una versione robotica di Sonic praticamente, non mi ricordo più come si chiamava. Ah, ma fai conto che io la parte SNES l'ho un po' saltata, perché ho sempre avuto console Sega da piccolo. Mm-hmm. E diciamo il mondo SNES l'ho conosciuto, ho iniziato a conoscere una decina di anni fa, sì. Prima per me era tutto Sega, videogioco era Sega, venivo il Master System, il Game Gear, il Mega Drive, era tutto Sega, quindi giocavo quello che usciva su console, quindi mm-hmm. Le altre console non le conosco molto, però vabbè, può essere, fai conto che tutti i miei giochi giocandoli si prova sicuramente una sensazione di déjà vu perché assomigliano a centinaia di altri giochi che abbiamo giocato in tutta la vita, voglio dire. Poi fai conto, io ormai all'alba dei 31 anni, cioè voglio dire, di giochi ne ho giocati tantissimi. Tu vedo comunque mi sembri abbastanza giovane, no? Sì, ne ho 24. Ah vabbè, dai, che cos'è, sulla strada della vecchiaia. Videoludico. Però dai, giocavo già da 8 anni, quindi anch'io ne ho provati tanti. Sì, immagino, assolutamente. Però della Sega, tipo, giocai solo Alex Kidd a casa di un amico e basta, quindi... Ma del Master System, Alex Kidd? Sì. Fantastico. Sì, sì. Miracle World, è giusto? Sì, no. Alex Kidd in Miracle World, quello che i boss erano le mani della mora cinese. Quel gioco è storico, tu non scherzi, ma io ogni tanto sull'emulatore un giro me lo faccio, tranquillamente. Perché cioè, oggigiorno è strano giocarli per chi non li ha giocati quando era piccino, picciò, Sì, quindi, sì. Quelli di oggi ti guardano pure straniti se ti vedono giocare un gioco così. Però, cioè, è un bel bagaglio storico. Dunque, quindi te hai detto che sei un Sega Boy. per quanto possa suonare male. No, guarda, io sono stato proprio un fissato fino ai tempi del Dreamcast, ti dico la verità. Poi Sega ha preso le strade che ha preso e quindi, diciamo, ho un po' perso questa passione che avevo nei suoi confronti. E comunque... Dreamcast compreso o escluso, quindi? No, Dreamcast compreso, che io ho adorato in una maniera allucinante. Poi il periodo del Dreamcast è stato il periodo in cui iniziavo a lavorare, quindi riuscivo a permettermi anche qualche gioco in più. Perché ti dico, fino ai tempi di prima cosa si giocava? Tu probabilmente lo sai meglio di me. Si giocava quando ti regalavano il gioco a Pasqua, quando ti regalavano Natale, a Natale. Quindi un gioco che durava 2 ore, te lo dovevi far durare tipo, tutto l'anno era una cosa assolutamente magica dal mio punto di vista. Adesso invece i giochi sono fin troppo lunghi, io per finirne uno che ci vogliono 20 ore tra lavoro, impegni, eccetera, ci metto 2, 3, 4 settimane anche addirittura certe volte. Quindi diciamo, i tempi sono decisamente cambiati. Poi alcuni erano talmente difficili che un anno non ti bastava a finirli. Sì, se ti riferisci a qualche gioco di ruolo in particolare, sì, è vero. No, non parlavo di giochi di ruolo, però anche i platform, tipo la modalità più difficile di Ghost and Goal è una cosa terribile. Tu parli di Ghost and Goblins o di Ghost and Ghost? Ah, tutti e tre. Tutte le tre versioni hanno la modalità più difficile, che è una cosa assurda. Super Ghost and Goal, No, Ghost and Goblin è il primo. Okay. Poi c'è Ghost and Goal e poi c'è Super Ghost and Goal. Ok. O Ghost and Ghost, vabbè, mi sbaglio sempre. Io del Master System avevo Ghost and Ghost e non vi dico quante volte ci avrò giocato. Io e il mio amico eravamo veramente fissati con quel gioco. Particolare. E quindi della tua infanzia, qual è il gioco che più ha influenzato infanzia, adolescenza, quello che ha più influenzato la tua, a parte Sonic, okay? La tua produzione? No, perché Sonic ormai l'hai già detto, trova un altro. Quello, lì si vede un po' dappertutto. No, però ti dico, tutti, io, vabbè, si capisce anche da quello che pubblico che comunque per me videogioco è sempre stato platform, quindi ti dico, io sono cresciuto con i giochi di piattaforma, quindi ne avrò giocati a centinaia. Uno in particolare di riferimento non c'è, ho preso un po' da da tanto, da tutti, idea di qua, idea di là, spunti di qua, eccetera. Uno di riferimento non te lo so proprio dare. Tutti rientrano tutti nella zona platform 8-16-bit, sì. Diciamo una serie in particolare, a parte Sonic, giustamente no, assolutamente no. Che forse un po' di Wonder Boy ce l'hai, vero, nel tuo passato? Parlarmi di Wonder Boy, ecco, ecco. Lui l'ho notato in Lizardman, ad esempio. È l'unica saga per cui odio Sega perché non l'ha portata avanti. Voglio dire, una saga così, anche adesso con la scusa che ritornano un po' tutti i vecchi giochi, tipo il classico Sparkster, non so se lo conoscete, ma io su Mega Drive ho giocato, sì, tutti e due gli episodi e lo adoravo. E riescono un po' tutte le vecchie glorie, ma tirate fuori, porca miseria, anche questo maledetto Wonder Boy che mi ha fatto passare pomeriggi stupendi, Wonder Boy 1, quelli su Master System, quelli su Mega Drive, no, hai detto Sparkster per caso? Sparkster, che il primo si chiamava Rocket. È il gioco che ti dicevo prima, quello che mi ricorda Sonic, che non mi viene il nome, è Sparkster, esatto. Sì, l'opossum là. Sì, diciamo che vagamente un po' lo ricordo, ma ne ho visti di personaggi che lo ricordano. Evidentemente c'è stato un periodo in cui andava molto a copiare lo stile, diciamo, grintoso di Sonic. Sì, sì. Cosa è venuto fuori? Ah, Sparkster l'avevo giocato su Super Nintendo, quando ancora i videogiochi si potevano noleggiare, si potevano solo noleggiare praticamente. Ai tempi di Blockbuster? No, qui nella zona c'erano un sacco di negozietti di giocattoli che noleggiavano i videogiochi. Noleggiavano i videogiochi, però. Sì. No, io mi ricordo di Blockbuster, ma me lo ricordo più che altro per i tempi della PlayStation, la prima PlayStation e basta. Della tua produzione, qual è il gioco che ti è piaciuto di più? Cioè, proprio alla fine, questo è il mio masterpiece. Fammici pensare. Me l'aspettavo una domanda del genere, ma non ho avuto tempo di prepararmi. Che sia cosa? Sprint, perché dà logo alla compagnia. In realtà forse è il contrario. Assolutamente, io ti racconto la storia di Sprint che ho realizzato tipo alla velocità della luce in 3 settimane. Bella. E vedere, ti assicuro, vedere che un gioco così semplice, perché effettivamente è un gioco, cioè, sciocco tra virgolette, abbia uno stuolo di persone che ci hanno giocato, cioè così tanti download dappertutto, è il mio gioco credo più conosciuto, cioè mi ha lasciato basito, perché magari altri giochi in cui ho messo veramente tantissime risorse, tantissimo tempo per realizzare, che magari sono un po', non dico snobbati, però vedere un gioco come Sprint che è stato realizzato così, questo veramente quasi per scherzo, giusto per, era un po' il gioco che accompagnava il nuovo logo, ti dico la verità, niente di nessuna notizia particolare. E vedere che sia stato così tanto scaricato mi ha veramente lasciato basito e mi ha fatto molto piacere. Però il gioco che secondo me, ti dico, quello che mi è piaciuto di più realizzare e quello che mi ha dato più soddisfazioni, ti dico la verità, è che secondo me è veramente completo, proprio ne parlavamo prima, Rumble. Mm-hmm. Rumble veramente mi ha lasciato proprio, mi sembra che di essere riuscito a fare tutto quello che ho in mente. Ok, allora li metto sullo stesso piano, Lizardman e Rumble li metto sullo stesso piano, perché Lizardman era anche... Lizardman è veramente bello. Un po' arretrato, poi la storia della faccenda della mappa, di ritornare nei posti per visitare con nuove abilità i nuovi draghi. Esatto, il dovere cambiare drago perché hanno l'abilità diversa è proprio, ti riporta proprio... Sì, è una cosa che veramente, cioè, mi è piaciuto tantissimo poi realizzarla, scherzi, ma il bello di Game Maker è anche che per il momento mi piace tantissimo comunque anche farlo il gioco, capito? Tanto non facendolo per denaro, o lo fai con passione o tanto vale che non lo fai, capito? Vale. Mm-hmm. Non è che è un lavoro il mio, che tanto comunque lo devi fare, basta. Lo faccio nel tempo libero, nei ritagli di tempo, e lo faccio con passione, perché mi piace. Lo realizzo un gioco cercando di fare quello che a me piacerebbe giocare da un platform, dico la verità. Visto che parlavamo di Rumble, ecco, io ti volevo fare una domanda su Rumble, è un po' imbarazzante, ma io non riesco a uccidere il primo boss. Non riesco a colpire, non riesco a capire come colpire il primo boss. Infatti ti volevo mandare una mail solo per chiederti come si fa. Non sarebbe stato un problema, ti assicuro che ti avrei risposto immediatamente. Il primo boss è quello che esce fuori dall'acqua, giusto? Sì, è il tirannosauro. Sì, sì, sì, il tirannosauro c'è più avanti, questo okay. Qui. Questo praticamente... È uno stegosauro. Ah sì, a me sembrava fosse un tiranno. Al collo lungo, Ah, cioè, tipo Nessie. scusa, il tirannosauro è uno screenshot del gioco che ho visto e mi ha confuso, sì. Ok. Quello è il secondo boss, ti dico, quello è il secondo boss, il tirannosauro. Allora, praticamente il primo, molto semplicemente, devi avere un po' di tempistica, perché questo qui esce fuori dall'acqua, mm-hmm. ti spara la sua palla blu, e tu gliela devi rispedire al mittente colpendola con il bastone. Ah, ok, devi riflettergli il colpo. Io cercavo di colpirgli la testa in tutti i modi, saltandogli in testa, clavandolo, ma niente. No, è difficile nei miei giochi, ti dico la verità, trovare dei mostri da fare come magari si facevano nei giochi sparatutto, che devi darci contro. C'è sempre un qualcosa alla Zelda, se mi permetti il termine, che tra l'altro è una saga che adoro, anche quella, in cui c'è un modo per, te lo dico perché se deciderei di andare avanti nel gioco, il secondo mostro, anche quello un po' più, è un po' macchinoso, ma tra virgolette macchinoso, nel senso devi capire come farlo, però qua per il resto è semplice. Mai colpirli direttamente, a parte l'ultimo mostro, gli altri non si colpiscono mai direttamente. Ok. Io li ho provati tutti, ma Rumble è veramente l'unico che mi ha bloccato al primo boss. Ero anche rimasto un po' male, non capivo proprio come fare. Porca miseria, vabbè, ma tu fai conto che molte persone anche mi scrivono per chiedermi le cose più semplici, quindi qualsiasi problema. A me fa piacere, cioè, vedere, renderti conto che la gente mi gioca, che magari rimane anche bloccata, cioè, non che mi faccia piacere, che sono sadico. rimangono bloccate, però se hanno bisogno di aiuto basta mandare una mail, io rispondo abbastanza celermente. Questo è per tutti i nostri ascoltatori. Assolutamente. Se avete bisogno di aiuto per andare avanti, Dark Leo è dispostissimo a rispondere alle vostre mail. Assolutamente, sono mail, quindi io non utilizzo metodi strani tipo Messenger, strani tra virgolette, cioè Messenger, Skype o cose del genere, ma via mail io rispondo sempre. Non ci vuole magari qualche giorno, perché sai, con i ritmi di oggi è un po' dura, sì. Però rispondo sempre, assolutamente. Un altro gioco, ti dico la verità, che mi ha soddisfatto molto, ma dal punto di vista dei contenuti, forse non l'hai giocato, ma in ambito PC è molto scaricato, è stato Sonic & Knuckles Double Panic. Quello veramente, dal punto di vista dei contenuti, non so neanch'io come ho fatto a metterci così tanta roba. Però ti assicuro, non avere il coraggio, cioè non credo molte persone avranno il coraggio di finirlo al 100%. A parte un mio fan, che veramente, cioè se mi ascolta, ma tanto mi ascolta perché gli manderò il link dell'intervista. Si chiama New The Chameleon, magari l'avete sentito online, perché si fa sentire un po' su tutti i siti di game making, una cosa del genere. E diciamo, lui che è il mio fan numero uno, devo dirlo, questo qui mi finisce i giochi alla velocità della luce, è bravissimo, cioè li rigioca, mi manda i suoi commenti, alcuni molto utili tra l'altro, assolutamente. Quindi no, questo lui lo saluto, ciao New, se mi sente, tanto bene o male ci sentiamo ogni tanto via mail. E poi chiaramente c'ho il mio beta tester personale, che ultimamente è diventato un po' meno beta tester perché sono messo un po' dagli impegni, che è il classico G-Soft che magari si vede alla fine dei giochi. Sì, diciamo che era un po' il mio beta tester, ultimamente però non riesce più a stare dietro alle mie produzioni, quindi diciamo lo lascio un po' in pace e cerco di controllarmi al meglio io. Però sai, una seconda opinione è sempre importantissima. Ah, sì. Assolutamente. Tu fai conto che i primi giochi che ho realizzato erano di una difficoltà spaventosa. Non so se ho la sfortuna di imbatterti in Ciao World di X, per dirti, che è un gioco difficilissimo e frustrante. Ce l'ho davanti adesso. Perfetto, perché non avendo idea, capito, di come del livello di difficoltà medio dei giocatori, a me sembrava sempre facile il gioco. E quindi continuavo a magari venderlo. Ah, sì, sì. Poi vabbè, poi mi sono dato una regolata. Gli ultimi giochi sono assolutamente giocabili, alcuni anche molto semplici, secondo me. Anche a me è capitato che ho fatto uno shoot 'em up quest'anno con RPG Maker, però. E io andavo avanti, facevo dei gran livelli a randa. Poi mi arrivano le mail dei beta tester, mi arrivano 4 mail, tutti e 4 i beta tester non riuscivano a finire il primo livello. E io, ma come? È facilissimo, lo finisco tutti i giorni. Perché mi puoi capire sotto questo punto di vista, perché effettivamente cioè, tu lo sai a memoria il tuo gioco, conosci il tuo codice, conosci i tuoi punti di forza, i tuoi punti deboli, cioè per te è sempre semplice. Sì, infatti sì. Io ti dico, le mie ultime produzioni, almeno le mie ultime 10, io trovo che siano dei giochi veramente semplicissimi. Però capisco dalle mail che mi arrivano, dai commenti, eccetera, che comunque il livello di difficoltà. Ti abbiamo perso? Mi sa che abbiamo perso la connessione. Mi risenti? Sì, Ora adesso sì. ti sento. Scusami, ma per qualche motivo strano è andata via la connessione. Mi da qui Skype mi diceva che c'erano dei problemi, ma sono passati. Ok, posso ricominciare. E niente, come ti dicevo, praticamente, scusami, ma stavo leggendo una cosa per sapere del discorso sulla difficoltà dei giochi, non ti rendi mai Dicevi che i conto. tuoi ultimi giochi sono molto facili per te. Cioè, per quanto mi riguarda, li trovo molto facili, però la gente comunque vedo che li dà difficoltà. Poi, come ti dicevo, non ci sono molte persone che sono disposte a passarci 2, 3, 4 ore su un gioco amatoriale gratuito, con tutto il ben di Dio, tra virgolette, che c'è da giocare in giro. Poi Sì. c'ha il lavoro, la scuola, gli impegni, la famiglia, di qua di là, non è che uno può stare 2-3 ore a giocare un gioco. Quindi con gli ultimi giochi ci avrei fatto caso, comunque ho ridimensionato la lunghezza, ho fatto meno livelli, così almeno magari uno lo prova e si avvince, fa in tempo a finirlo prima di stufarsene, capito? Quindi diciamo, la mia nuova politica è questa, giochi più corti, più piccoli. Summerland teneva abbastanza occupati, eh. Summerland, ecco, quello è un altro discorso. Stranissimo perché io pensavo che 20 livelli fossero anche troppo pochi, ti dico la verità. All'inizio del progetto ne avevo in mente 30, Ma poi ho devi farne 30. Vabbè, 30 no, 30 no, sono e no, Summerland era molto bello. L'ha finito Claudio, te l'hai finito qualche giorno fa, vero? Sì, molto volentieri anche, molto carino. Bene, bene, mi fa molto piacere. Poi lui è un perfezionista, cioè il livello lo deve finire al 100%, quindi dato che tu in tutti i tuoi giochi metti il fatto che c'è il modo per finire il livello ottenendo un bonus, no? Sì, sì, La sì, sì. tipo Milo Apple Quest, lui l'ha fatto al 100%. No, No, cioè. veramente? Sì, ha fatto anche il livello della torre, per i segreti che sblocchi con le Il password. livello l'ha fatto bestemmiare. Ma ascolta, ma ti dico una cosa, hai fatto anche la super sfida delle altre 35 mele? Oddio, non ricordo. Perché praticamente, tra l'altro, avevo rilasciato anche un'ultima password che completando i primi 35 livelli, facendo questa, cioè mettendo questa password, praticamente non ti azzerava le mele che avevi preso, rimanevano 35, ma dovevi ripetere gli stessi livelli a un livello di difficoltà un po' più difficile. Quindi, diciamo, se l'hai trovato già abbastanza tosto al primo giro, ti sconsiglio di farlo. E alla fine di questo nuovo viaggio, diciamo, si sbloccava qualcosa comunque. Mi sembra che te avevi inserito una password che hai trovato in Lizardman, mi sembra. Sì, in un altro gioco ho trovato una password. Allora, in Lizza avevo fatto quel Lizardman dedicato al Natale Sì, e esatto. nel negozio alla fine si comprava una password per sbloccare, credo, il livello di Natale dentro Milo, credo, Sì, eh? mi ricordo. E oltre a quello ce n'era un'altra di password. Ora ti dico la verità, non me la ricordo proprio, ma se vuoi te la manderò via mail, così al limite proverai a cimentarti in questa nuova sfida se mai ti venisse la voglia, ci mancherebbe. Ok, tanto i giochi con i salvataggi sono ancora lì, tutti ben conservati. Sì. Tra l'altro il mio primo gioco, Evolution, non c'aveva neanche salvataggio, uno doveva spararsi 21 e passa livelli Era lunghissimi, intensivo, era. lunghissimi, lunghissimi, e poi difficilissimi, perché non c'era il fatto che perdevi gli anelli come nei classici Sonic. Se appena ti beccava un nemico, ciao, dovevi ricominciarti il livello da capo. Infatti credo che secondo me la gente avrà visto il primo, massimo il secondo livello. Non c'era neanche il checkpoint. Non ci sono i check... ma quello fai conto che è proprio il mio primo gioco vero, nel senso il primo che ho pubblicato, eh. Quindi diciamo, non avevo conoscenze, poi il primo Game Maker era molto limitato rispetto all'8 che sto usando in questo periodo, quindi era assolutamente molto molto limitato. Io a oggi credo di aver provato a usare Game Maker, tipo installato e provato a usare Game Maker tipo 5 volte, e tutte le 5 volte sono rinunciato. Guarda, allo stato attuale rispetto a quando ho iniziato io, comunque è molto più semplice da usare perché ci sono un sacco di comandi drag and drop, eh. Come ti ho detto prima, all'inizio bisognava usare un po' di codice per far funzionare le cose. Adesso invece ti dico, Sonic Origins, non so se è presente, che ho realizzato insieme a G-Soft, il mio Sì. ex beta tester, lui il motore di gioco l'ha realizzato tutto lui da solo, no? Ed era anche tutto lui da solo, e senza neanche una riga di codice, tutto drag and drop. E mi sembra che funzioni bene comunque, non ha Eh sì. bug evidenti o cose del genere. Tutto assolutamente, ma ti dico, quello è stato un periodo tremendo per lui perché veramente... Non lavorava, quindi ci passava su, credo, 20 ore al giorno su 24 a lavorarci, era veramente, un po' mi dispiaceva, però veramente lui era una passione incredibile nel realizzare sta cosa. Poi con lui ho fatto anche Puzzle Adventure, non so se l'avete provato. No, l'ho appena. No, non l'avevo visto l'altra volta che sono sul tuo sito, non l'ho notato, mi è sfuggito. No, ci mancherebbe. Non è stato neanche pubblicato tipo su YoYo Games, che è dove pubblico di solito i giochi. Lo trovate solo sul mio blog, praticamente. Ce l'ho qui davanti. E quindi questo è diverso dagli altri? Questo non è un plat, è uno, credo, l'unico insieme a un altro che è Color Invaders, che non Sì. è un gioco di piattaforme, sì, effettivamente. Dentro Puzzle Adventure, beh, c'è la mappa anche qui, realizzata anche da questo mio amico, si chiama Marco, se mi sente lo saluto. Ciao. È praticamente realizzato tutto, cioè in gran parte da lui, perché si è dedicato comunque a gran parte dei minigiochi, ne ho fatti pochi rispetto a lui, quindi diciamo questo è più un suo progetto che un... Però vado orgoglioso anche di questa cosa qui, assolutamente. Dentro ci sono tipo una ventina di minigiochi diversi che spaziano molto dallo sparatutto al gioco di guida, al puzzle, al piattaforma. Insomma, dentro ci trovate un bel po' di roba. Secondo me un giretto vale la pena farlo, che poi appassioni o meno è tutto un altro discorso, ci mancherebbe, è soggettiva quella cosa. Ok, intanto io c'ho Rumble adesso che devo assolutamente recuperare. Ora che Parte so come andrà avanti. in... No, Rumble veramente molto bello, mi è piaciuto tantissimo realizzarlo. Mi sembra proprio il classico gioco a 16 bit che mi sarebbe piaciuto giocare da piccolo, ti dico la verità. Quello dei due cavernicoli mi viene in mente, com'è? Joe e Mac. Sì, Joe e Sì, Mac, ecco. Mi viene in mente Joe e Mac subito. sì. E beh, te l'ho detto, ne ho giocati di platform che tu non hai neanche idea. Poi da piccolo comunque per sopravvivere tra un gioco e l'altro che ti regalavano, comunque Sopravvivere. tra gli amici ci si scambiava i giochi, quindi diciamo Sì. di bagaglio videoludico sui platform, guarda, potrei essere quasi un'enciclopedia. Dico la verità, ne ho giocati veramente tanto, assolutamente. Boh, niente, non saprei cos'altro chiederti. Quindi se tieni conto dei tuoi giochi, comunque, in generale, qual è quello che proprio più di tutti ha avuto riscontro al pubblico? È proprio Sprint? Sprint e Leatherman. E Sprint e Leatherman, Leatherman, ecco, sì. secondo me, sono quelli che hanno avuto più successo commerciale, ma permettimi il termine commerciale che non è corretto, perché più Sì, successo ok. di pubblico assolutamente, questi qui, secondo me. Sprint, ti ripeto, a sorpresa, non me l'aspettavo assolutamente, un successo, tra virgolette, di questo gioco. Non perché fosse brutto, ci mancherebbe, ogni mio gioco non lo pubblico finché non sono soddisfatto di quello che ho fatto, figurati. Però diciamo, un gioco realizzato in 3 settimane, in vita mi ci avevo messo quasi 6 mesi a farlo. Poi allora non ero molto scaltro con Game Maker, quindi ci mettevo sì, un po' di più effettivamente. L'impressione che dà non è quella di un gioco fatto in 3 settimane, infatti stupisce sentirselo dire questo. Infatti guarda, proprio cristallinamente lo ammetto, ma non c'è nessun retroscena particolare, no, assolutamente. Ci ho messo proprio esattamente 3 settimane a realizzare Sprint. Assolutamente, non c'è nessun 3 settimane, magari un po' di lavoro intenso, perché sì, mi ricordo il periodo e avevo abbastanza tempo libero perché ero infortunato, ero praticamente a casa, quindi diciamo il tempo ce l'avevo, però solo 3 settimane, 3 settimane di fila, e il gioco è venuto fuori così bene. L'unico cruccio, ti dico, è la grafica, che purtroppo non realizzo mai completamente io, anzi mi appoggio tantissimo a giochi del passato, come avrete notato, cioè, perché sono una pippa totale a disegnare qualsiasi cosa, una cosa proprio veramente che non fa per me, porca miseria. Quelli non ci si può fare niente. Così basta, così e basta. Mi piacerebbe però imparare un po' di sprite design, una cosa del genere, che sono così affascinanti, però vanno molto di moda adesso. Che cosa, le sprite? E sprite, sì. In che senso, scusa? Sai che adesso stiamo un po' rivivendo questa sezione retro, anche grazie ai Sì, dispositivi. sì, sì. Quindi questo pixel, ecco, Ah, ok. veniva il termine, un po' di Parli pixel della pixel art, ecco. art, esatto, mi Sì, veniva il ormai è diventato un termine abbastanza usato. termine. Sì, diciamo che va di nuovo di moda questo pixel. Infatti il gioco che sto realizzando adesso è molto, molto, molto pixel. Molto, molto Master System, sì. Questo aspetto mi piace tantissimo, ti dico, assolutamente. vedremo cosa ne verrà fuori. Ma sinceramente non saprei, non mi dispiace a me perché comunque io sono a me piacciono i platform, le avventure grafiche, quindi i pixel per me sono il pane, però sto abbastanza come retrocesso, cioè i giochi che hanno questa grafica comunque sono fatti per essere di basso consumo, cioè sono quelli da cellulare, non sono mai grandi giochi, in alcuni casi sì. No, no, io ho giocato dei giochi, adesso perdonami, non mi viene in mente il titolo, che comunque, nonostante molto pixel, era veramente molto, molto giocabile, molto bello, molto semplice. Mi viene in mente DDDDD, non so se hai presente, quel gioco che è uscito, c'era un po' già da sui PC, un po' di Sto tempo fa, che guardando. aveva una grafica veramente, tipo, il titolo aveva tipo, mi sembra, 6-7 V di seguito, infatti Ma le G hai produzioni... detto? Vivi come Verona, proprio un Ah, bel che vivi, ok. aveva una grafica talmente minimale, ma ti catturava, non so. Eccolo. Secondo me uno non deve fermarsi all'aspetto, perché è la cosa che meno conta. Ah, sicuramente. Sembra un po' ipocrita dire una cosa del genere oggigiorno, che siamo sommersi da poligoni, texture di alta definizione e tutto il resto. Però secondo me, cioè, il gioco, cioè, può essere bello quanto vuoi, ma se non ti prende, non ti prende. Sì, Le grafiche è cioè. solo mezzo per esprimere quello che uno è in mente. Io preferisco un tuo platform qualsiasi a Assassin's Creed, per dire. Vabbè, lì è anche una questione di genere, che a me Assassin's Creed fa schifo, però anche a livello grafico. Caspita, sei uno dei pochi che ha il coraggio di ammetterlo. Domani troverai uno stuolo di persone pronte a fustigarti fuori Ah, teatro. ma te non hai seguito la trasmissione, ma ogni 10 minuti io devo dire che tutti i giocatori di oggi non capiscono niente di videogiochi, quindi. Guarda, a Perché. volte quando mi trovo a vedere cosa vende in maniera esponenziale, magari a discapito di giochi che secondo me meritano di più. Mi scappa anche a me di dire, ma che cosa stanno giocando sti ragazzini di oggi? Quindi, Infatti. diciamo, sotto quel punto di vista non sei solo, diciamo. Però per il resto, vabbè, comunque è inutile lamentarsi, il progresso è così, i giochi sono quelli, adesso sono così, quindi uno si adegua o cioè, non possiamo stare la vita a giocare sempre i giochi del passato. Purtroppo uno si adegua o smette di essere videogiocatore, dal mio punto di vista purtroppo è così. No, diventi retro gamer semplicemente. Sì, voglio dire, uno non può giocare. Vabbè, tu dici, c'è un'enciclopedia talmente vasta di retro Sì. giochi che uno potrebbe passare il resto della vita a recuperare quello che non ha Ah, recuperato è negli quello ultimi. che faccio io praticamente. Quest'anno avrò giocato, negli ultimi 2 anni, anzi, avrò giocato due giochi nuovi e 30 della PlayStation 2, per dire. Beh, PlayStation 2 è retro gaming, però non esattamente molto retro, Beh, eh. PlayStation, ok, allora ti faccio l'elenco di tutte le console, però quella che ho giocato di più è la PlayStation 2, ma anche comunque ho recuperato roba del Super Nintendo, del NES. Bravissimo, no, ma anche a me capita spesso di giocarmi giochi così molto molto vecchi, o molto molto vecchi, o mi gioco qualche gioco recente, ma veramente quelli recenti, io ti dico, sono rimasto a Dante's Inferno per darti un'idea, ne gioco talmente di rado e ci metto talmente tanto a finirli perché sono giganteschi, cioè giganteschi dal mio punto di vista. Poi adesso ho pochissimo tempo, comunque lavorando e c'hai gli impegni e la ragazza e tutto il resto, non hai il tempo di stare 2 o 3 ore di seguito a giocare a un videogioco, magari anche la sera, c'è un impegno di qua, un impegno di là. A me capita di giocare, dico, quei 3 quarti d'ora di seguito riesco a farmeli ogni tanto, nei weekend. Però in settimana è difficile. Poi se voglio Sì. dedicarmi anche a Game Maker, non posso riuscire a fare tutto in un giorno. Quindi diciamo, i giochi sull'Xbox aspettano, piano piano li finisco. Hai idea ancora del tempo? Devi andare. No, no, finché guarda non ricevo uno squillo sul telefono posso restare, vai tranquillo. Allora aspetta un attimo che introduco uno dei nostri che è arrivato adesso. Che faccio la prossima domanda. Mi hai fatto venire in mente, Riccardo, sei arrivato? Aspetta, sì, ci sono. Ok, Riccardo, Rixka, questo è Dark Leo. Ciao Ciao. Riccardo. Sei arrivato nel bel mezzo dell'intervista, quindi inserisciti quando vuoi. Va bene. Ti volevo chiedere, quant'è che ci metti in media a fare un gioco? Dipende da tantissimi fattori, da quanto grande lo voglio fare. Però te l'ho detto, le ultime produzioni, tipo in media 3 mesi. Media, sì, 3 mesi circa. Quindi Capita tu. anche che inizio dei progetti e poi non mi convincono e li cestino, quindi voglio dire. Ah, quindi hai anche tanti progetti morti? Tanti no, qualcuno sì, qualcuno anche a stadi particolarmente avanzati. Poi recentemente ho avuto una sfiga tremenda col portatile che si è, diciamo, portato via un po' tutti i miei vecchi file, quindi L'incubo di ogni game l'incubo di ogni fesso che non si prende un hard disk esterno, maker. Sì. come me, che io ogni giorno dico mi faccio un backup, ma poi non lo fai mai, per questioni di tempo eccetera, non lo fai mai. E Sì. quindi me la sono presa in quel posticino, evitiamo di scendere nei Andare nei particolari. particolari. Quando ho un progetto in corso, ogni giorno faccio il backup nella chiavetta perché ho il terrore che succeda qualcosa. Tu non ci credi, ma io faccio la stessa cosa, praticamente. Da quando mi è successa questa cosa qui lo faccio anch'io, perché praticamente mi copio praticamente la cartella del gioco sulla chiavetta. Sì. Ma tanto se la sfiga, guarda, ci sa fare. Può capitare anche che si impala il computer e perdo la Sì, chiavetta. anche, Potrebbe anche vabbè, ma lì succedere che sì, è una se la congiura, sfiga cioè. vuole ci si mette contro. Tra l'altro, cioè, è veramente da tirar fuori veramente parole grosse. Io stavo lavorando a un gioco molto vasto per festeggiare, tra virgolette, 10 anni di lavoro con Game Maker. Ed era un gioco un po' basato su tutti i vecchi prodotti che ho pubblicato. Ero anche ad uno stato abbastanza avanzato di sviluppo, il motore era pronto, i primi livelli erano già pronti, e mi è successa sta cosa. Quindi non ti dico in che sconforto totale sono caduto. Ho detto veramente qui non so se avrò più la forza di iniziare a lavorare con Game Maker dopo tutte le ore passate su questo progetto. Ah, sì, Capisco. è successo anche a mio fratello con un RPG che stava Claudio, facendo. mi Esatto. ricordo. No, ma Riccardo è tuo fratello? No, lui è No. cugino. Ah, Mio fratello è ok. l'altro che è qui con me, siamo in due. Ah, sarebbe WarioPunk. No, Variopunk sono io. Ok, Uso il perché mio poi nella account su Skype, è un gran casino. Sì. Sì. Abbiamo fatto fuori che il tuo Sì. fratello invece sarebbe Sonic. Scar the Pumpkin. Ah, giusto, il nome dell'account, giustamente. Sì. Sì, stiamo usando il suo account perché nel mio è pieno di scassamaroni che scriverebbero e chiamerebbero ogni 2 secondi. Salutiamo gli scassamaroni. Va Quindi bene. diciamo Sì, che sei il canale interviste, vi dai. voglio, vi Sì. voglio bene anche se vi dico così a tutti. No, tra l'altro lui è perché usava RPG Maker. RPG Maker ha una cosa agghiacciante. Cioè, se tu durante il progetto ti va via la luce, si blocca perché ti dà, il programma non risponde per un motivo o per un Salta in altro, aria la casa, tutto il resto. sì, il file del progetto viene corrotto. È assurda sta cosa. Ascolta, anche che non coinvolga il programma. Sì. Tipo, so, ti si spegne Anche se improvvisamente il hai appena computer. salvato e non hai fatto modifiche e poi salta la luce, Esattamente. il progetto è corrotto. È Esatto. Questo è irrecuperabile. gravissimo. Almeno, È una non cosa so, gravissima, quello è stato praticamente. anche un caso, magari bisognerebbe fare dei test, magari è stato solo un caso particolare che No, ho letto su si è internet corrotto succede. tutto. Se penso che quando usavo sempre della Enterbrain, tra l'altro, sempre loro, Che simpatico. 2D Fighting Maker, il programma crashava ogni 3-5 minuti e riaprivo il progetto, era tutto come prima, vabbè. Vabbè, 2D No, per fortuna Fighting Game Maker crea dei file di backup automaticamente ogni tanto da soli, quindi anche se si corrompe il file principale può recuperarlo dal backup. Maker. Ah, questa è una buona Quindi cosa. almeno sotto questo punto di vista Game Maker è abbastanza tranquillo, soprattutto nelle ultime versioni, le prime erano un po' più bastarde sotto questo Te usi punto il Pro o la Lite? Il Pro? di vista. Io uso il Pro, sì, assolutamente, l'8.0 il Pro, prima Ah, è il vero. 7, attenzione, fino al 7. No, allora, della licenza l'ho acquistata per il 6.1, se non sbaglio, che usavo la versione Pro, e il 7 no, perché non, cioè, aveva dei bug tremendi quel cavolo di programma, si impallava anche quello ogni tanto, quindi del 7 la Pro non l'ho mai acquistata, dell'8 invece sì. Infatti. L'8.1 invece non l'ho scaricato, l'ho provato e assolutamente non mi trovo con le nuove funzioni, quindi continuo Per adesso uso la 8, assolutamente. Lo possiamo notare quindi dai banner che ti mette Game Maker quando apri il gioco, quali sono quelli Sì, che... praticamente esatto. Se non c'è il banner con la pubblicità di Game Maker vuol dire che sto usando il Pro, altrimenti la versione Lite. Comunque in quasi tutti i miei giochi c'è il banner della versione Lite, soprattutto gli ultimi che ho fatto col set. Quindi i giochi che hai cestinato sono proprio... hai distrutto tutto, è recuperabili o... potresti recuperarli un giorno, se li hai ancora. No, no, e anzi ti dico, mi sarebbe piaciuto recuperarne uno in particolare, però purtroppo, come ti ho detto, visto i recenti accadimenti con l'hard disk del mio portatile, ho perso praticamente tutto. Quindi non se ne parla di ricominciarli da capo. Ah no. Questo qui l'avrei Vabbè. riesumato e pubblicato perché ci aveva delle belle idee. Col senno di poi non saprei neanche dirti perché avevo smesso, l'avevo cestinato, era abbastanza vecchio, anche credo del 2008-2009. Però valeva la pena approfondirlo un attimino. Però vabbè, ormai è andato tutto perduto. Purtroppo. Troppo così, dai. Ma quando è che nasce un'idea per un gioco? Com'è che inizi? Inizi subito pensando a come sarà a livello di gameplay, pensando chi sarà il protagonista? No, no, io parto subito devo avere un'idea di gameplay. Devo avere in mente come funziona il gioco. Dopo penso a tutto il resto. Spesso mi capita di iniziare anche con delle sprite provvisorie, tipo una pallina nera su un blocco nero che raccoglie dei quadratini viola, per dirti. Che faccio. Se vedo che l'idea mi piace e funziona, comincio a investirci dal punto di vista grafico e sonoro. Diciamo, nasce sempre, il gioco parte sempre da un'idea di gameplay, come Tengo, non so se l'hai provato. Uno dei più Sì. recenti, che non è stato molto fortunato, e mi dispiace perché mi piaceva molto l'idea dei livelli puzzle e queste cose qui. Cioè, Pengo è partito proprio dall'idea del blocco, dall'idea di un personaggio che spinge i blocchi per risolvere i livelli. Quindi, diciamo, è partito dall'idea di sciogliere il ghiaccio. Cioè, c'è tutta una serie di. Si parte sempre dal gameplay, tutta una serie di idee che ti fanno iniziare il progetto. Se poi vedi che funziona, allora vai avanti. Investi un po' più di tempo. Se vedi che l'idea non ti convince, che comunque è noioso, frustrante, bla bla bla, allora finisce nella cartella lavori. Com'è che la chiamavo prima che si buttasse? Non mi ricordo neanche più come la chiamavo. Quelli Sembra cestinati. in sospeso. No, ma non li buttavo, li tenevo in una cartella. Mi sembra si chiamassero in sospeso o qualcosa del genere. Ed erano Quindi tutti lì, purtroppo poi basta, non c'è più traccia di niente, tutto la perduto. storia, il protagonista, queste cose qui le inserisci dopo con calma. Sì, non ci crederai, ma la storia è proprio l'ultima cosa che faccio. È Bene. una cosa incredibile, perché parto dal gameplay e poi vabbè, man mano che ci lavoro al gioco, magari mi viene quell'intuizione per fare la storia, ma la storia è proprio l'ultima cosa che faccio sempre. Beh, certo, la storia Oggi comunque invece, nel tuo caso non va a incidere su come sono fatti i livelli. assolutamente, è relativa, anzi in Sprint, che è uno dei giochi che ha avuto più successo, non c'è manco la storia. Per farti Vabbè. capire, comunque, voglio dire, le grandi sceneggiature le lascio ai giochi moderni. Il Cioè, re della giungla lo fa vedere a tutti, semplicemente. sì, è un po' di. Beh, sì, ce l'ha. Il re della giungla e mette gli altri animali in riga. Bella l'idea degli animaletti, sì, molto carina, mi è piaciuta. Mi è piaciuto, te lo dico, molto semplice e sono rimasto piacevolmente sorpreso nel constatare che ha avuto questo gran successo. Infatti, prima o poi mi sa che un seguito lo devo fare. Prima o poi, però, adesso non mi va di fare seguiti. Anzi, qualche tempo fa avevo pure iniziato a pastrocchiare sul seguito di Lizardman, ma era proprio all'inizio della progettazione, quindi è rimasto lì. E adesso in questo momento hai già il prossimo progetto iniziato o ancora No, stai no, no, lavorando? ho iniziato da un paio di settimane a lavorare a qualcosa di nuovo. Sì. A qualcosa di nuovo, ascolta, è un po' un paradosso parlare di qualcosa di nuovo per quanto riguarda i miei giochi, perché di nuovo non hanno proprio niente. Però diciamo, sì, sto lavorando al nuovo gioco, però non ho idea di quando riuscirò a pubblicarlo, ti dico la verità. Torno un po' indietro, per la gioia di tuo fratello sarà ispirato un po' a Milo, quindi magari potrebbe trovare qualcosa di positivo da giocare. Ah, ottimo. Vabbè, guarda che comunque in rete sei conosciuto, cioè bene o male ho sempre sentito, quando nominavo i tuoi giochi c'era sempre qualcuno che li conosceva. Sì, no, ma per, cioè, mi fa molto molto molto piacere questa cosa. Non me la sarei mai aspettata. Se mi facevi una domanda del genere 10 anni fa, ti avrei detto, ma che, fra 6 mesi, figurati, non faccio già più niente. Invece, Vabbè, sì, di sicuro non mi avresti ricorda visto. qualcosa. Sì, vabbè. Ogni riferimento a persone è puramente casuale, immagino, giusto? Sì. Persone, cose, animali. Già. Penso che l'ultimo gioco che doveva fare Wario fosse stato poi Edo Vadura Sbarn. Era l'ultimo gioco che faceva. Sì. Dark Leo non sa di cosa stai parlando, va È una bene? lunga storia, immagino, è una lunga Sì, storia. comunque diciamo che siamo uguali sotto questo punto di vista. Sì. Ma tuo fratello, cioè, il soprannome di Wario, eccetera, eccetera, è... No, scusami, il tuo, scusami, faccio Sì. ancora un po' di confusione. Sarà che lo stomaco comincia a brontolare. No, niente, praticamente quello che ti volevo dire, il tuo soprannome è dettato dall'amore verso questo personaggio o semplicemente... Vuoi Sì, dire che ti assomigli amore, perché... amore è la parola giusta, amore spasmodico verso questo personaggio. Sei sarcastico. No, no, no, mi piace Wario come personaggio. Sì, anche a me. Io ho giocato un sacco delle sue avventure e mi sono fatto Quelli del Game Boy sono fenomenali, di giochi di Wario. del Game Boy. Ho giocato il Super Mario Land 3, che era Wario Land, se non Sì, sbaglio. sì. Poi credo di averne persi un paio in giro. No, ho giocato anche il 3, se non sbaglio, che era quello che si poteva giocare anche a colori. Correggimi se sbaglio. O forse Quello dove c'è la mi sa che piramide. quello lì è il 2 forse, ma non so, no, forse è il 3, hai Io li ho ragione. giocati tutti, ma a parte l'uno, gli altri li confondo perché. Il 3 è Il quello che 4 devi raccogliere le chiavi. impressionante, il 4 è veramente uno dei giochi Game Boy Advance più belli A che vedere il ho. Il 4 è quello quattro... 4. dell'Advance. Ah, sì. Il 4, sì. A me piacciono Anche tutti quei io giochi lì. l'ho adorato. Wario è Sì. incredibile. Poi era basta. Sì. Per non parlare di WarioWare, eccetera, beh, adesso ultimamente si è ormai inflazionata la serie, ma tipo il primo episodio, veramente io non ti dico, l'ho proprio consumata la cartuccia, una cosa Sì. impressionante. Alla fine cercavi di farti dare dal genio la cosa più grossa che potevi. Una cosa incredibile. Sì, Mi sì. sembra che era la luna la cosa più grossa. Sì, per arrivare fino alla luna. E anche Wario The Shake Dimension per il Wii è molto bello. No, quello, ascolta, quello è un capolavoro, non è molto Ecco. bello, quello è un No, è che capolavoro. non Ascolta, credevo quello che tu avessi il Wii, quindi. è uno dei pochi giochi che io ho finito 2 volte. Io non è mia abitudine finire i giochi più di una volta, Al soprattutto quel. 100%. Io l'ho finito al 100%. Ma assolutamente quello lì l'ho finito. Cioè, spettacolare proprio. Tra l'altro, sono stato sciocco perché mi sono messo a cercare. Non mi ricordo che cosa c'era da trovare che non potevi trovare da solo. Mi sono messo a cercare che dovevi tirare pugni per terra in giro Le per far sì. mappe per sbloccare i livelli segreti sono. Eh sì, praticamente dovevi trovare delle reliquie, qualcosa del genere. Poi ho scoperto, finendolo, però dopo averle trovate tutto da solo, ti dava praticamente un aiuto per cercarle dopo averlo finito la prima volta. Ti dava tipo un amichetto, non mi ricordo, un amichetto che Ah, ti sì, dava c'è le. il luccichio per terra, mi pare. Sì, una cosa. Appena entravi nella schermata c'era il luccichio, una cosa del genere. Sì, e prima del livello c'era l'omino che ti diceva che c'era la mappa. Cioè, quindi tu l'hai fatto Esatto, senza ecco cos'era la luccichio? mappa. Bravissimo. E io l'ho scoperto dopo perché io non ho l'abitudine di andare su GameFAQ a vedere che cosa ho da sbloccare, eccetera. Preferisco la sorpresa, cioè finirmelo da solo e vedere cosa mi blocco. Io dopo averlo finito tutto da solo, aver anche faticato a trovare queste maledette Ah, mappe in giro, direi. mi si sblocca sto cavolo di aiuto, ho detto porca miseria. Cioè, tu l'hai fatto senza luccichio? Assolutamente sì, Ma assolutamente. alcune sono assurde. È terrificante L'ho sta cosa. scoperto come se... Tu non hai idea se, non mi ricordo se c'era il contatore delle ore, ma è uno dei giochi sicuramente che ho giocato di più su Wii. A parte Sonic e gli Anelli Segreti, che veramente credo di essere sulle 80 ore, anche Wario Land The Shake Dimension, veramente ci ho giocato tantissimo. Perché non avevo idea che si sbloccasse questa cosa qui, capito? E quindi, siccome come tuo fratello sono un po' un perfezionista, non finisco un livello finché non trovo tutto. Sai che livelli magari dovevi ripetere più volte per Ah, trovare, per forza. Poi per fare la lì missione. anche c'era la Ci sono cosa le che missioni. a volte devi scappare e devi prendere la cosa al volo, se no non la puoi più riprendere. Ma ti dico che mi è piaciuto talmente tanto che ripetere i livelli 200 volte non mi è assolutamente dato fastidio. O anche i boss che non bisogna farci colpire, tipo il boss finale che bisogna imparare a morire tutti gli attacchi. Aspetta, tu hai una bella memoria di sto gioco, ma io quasi tutto non me lo ricordo. Anzi, guarda, mi stai facendo venire voglia di rigiocarlo una terza volta. Hai tutto quel tempo disponibile? Oddio, no, purtroppo no. Rimando sempre. Ok. E invece Lionsoft da dove viene? Ah, direi che è il caso che ci salutiamo. Io comunque, se a voi fa piacere, sono sempre disponibile per una chiacchierata. In caso vi venisse in mente qualche altro argomento interessante, io sono disponibile. Basta metterci d'accordo. Non sono veloce, nel senso ci vorrà un po' di tempo per mettersi, per trovare il punto giusto, però si può fare assolutamente. Ok. Tanto adesso su Skype ti abbiamo, la mia mail ce l'hai, quindi se dobbiamo prendere un appuntamento abbiamo modo. Assolutamente sì. Sì. Se chiedermi qualcosa per i giochi mi fa più che piacere, ci mancherebbe altro. Prima di scappare riesci a rispondere all'ultima domanda al volo? Vai, vai, dimmi pure. Da dove viene Lionsoft, il nome? Bella domanda. Allora, banalmente ti potrei rispondere, non me lo ricordo, ti dico la verità, non me lo ricordo, credo abbia a che fare un po' con il leone, che comunque è un po', oltre a essere il mio segno zodiacale, è un po' un animale che mi piace molto, si vede da sprint, però non c'è un motivo particolare, assolutamente, non c'è un motivo particolare. Non lo so. Dice così perché deve scappare, in realtà è una storia molto lunga. No, in realtà non c'è ti dico la verità, assolutamente non c'è un motivo particolare. Lionsoft. Soft era un po' il nome che avevano tutte le software house tanti anni fa. Sì. Tipo, non me ne viene in mente neanche una. Sì, c'erano, ma non ci ricordiamo. Così, adesso vedrai, chiudo la chiamata Skype, mi vengono in mente tutte le cose che non mi sono venute in mente durante questo colloquio, diciamo. Quindi diciamo, Lion è venuto quasi spontaneamente, c'è il leone. Dai, se devi scappare facciamo i saluti, grazie per essere stato con noi, per averci dato il tuo tempo. No, grazie a voi, è stata un'esperienza molto molto piacevole. Lo speriamo. quella spiacevole verrà prossimamente. Sì, perché cosa può succedere? La pubblica non lo vuoi sapere. Non lo vuoi sapere. Okay, allora. Saluto e vi ringrazio per l'intervista. Sono onorato, diciamo, di apparire sul canale. Sentiremo un po' se verrà fuori tutto bene. Insomma, penso sicuramente di sì. Ah, giusto. Questa intervista esce domani, ok? Ah, già domani, quindi la preparerete già in serata? Sì, fa tutto il computer, tanto. Bene, dai. Allora domani sera magari sicuramente, anzi no, e magari sicuramente la riascolterò per farmi due risate e la linkerò a un po' di amici per fare due risate anche a loro. Ok. Grazie di tutto. Figuratevi. Ci sentiamo. Buon appetito allora. Grazie. Esatto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok. Adesso, visto che è scappato Dark Leo per ovvi motivi, noi vi diamo il link del suo blog nel caso vogliate provare i suoi giochi, che ne ha fatti una caterva. È lionsoftvideogames.blogspot.it, ma scrivendo Lionsoft su Google è la prima cosa che viene. Riccardo, hai qualche commento da fare? No, tipo io sono arrivato da 3 minuti e non ho assistito al resto della conversazione. Gira, hai qualche commento da fare? No. No, è stato molto piacevole, anche perché si mette passione lui nei suoi giochi. Sì, sì, sì, sì. Cioè, io alla fine in Italia di altri game maker oltre a me ne rispetto, vabbè, li rispetto tutti in realtà. Però uno di quelli che proprio rispetto di più è... Ah, beh, dicevo che andavi in giro a insultare la gente. No, i game maker li rispetto. Chi fa le recensioni non lo di solito non lo rispetto. Vabbè, lasciamo perdere, va bene. Gli altri game maker li rispetto tutti, però quello che più, diciamo, fa i lavori che mi fanno dire cavolo come vorrei essere bravo come lui è Dark Leo. Anche lì c'è il leone, hai visto? Lì dove? Non sono qui con te. Sai, te lo scherzo. Lì c'è Dark il Leo. suo avatar. Dark Leo, nel nome. Eh sì. Leo è uno Ah, ma si scuro. chiama Leonardo. No, si chiama No, si chiama Lorenzo. Si chiama Lorenzo, non si Lorenzo. chiama Leonardo. Vabbè, però. Non dovevamo dirlo, va bene. E niente, noi chiudiamo qui, Riccardo. Ci sentiamo per la prossima puntata di Triforce e per la prossima intervista di questa rubrica Ask the Maker, che avremo probabilmente Marius dello staff di Frank Expo. Ah, capito. Ah, personaggio ah, importante. piuttosto, visto che siamo in chiusura, no, vabbè, non siamo in Triforce, non possiamo dilagare, dai. Salutiamo i nostri ascoltatori, invitiamoli al prossimo episodio. Un saluto da Un saluto da Rick Ska. Enfasi. Enfasi quarto, che è Enfasi. arrivato tardi. Quarto. Cos'è un quarto? Elton 4.0, va bene. Va bene. Non so neanche di cosa tu stia parlando, ma va bene. Riccardo è programmato in Unix, mi raccomando. Unix. Saluta Riccardo. Ciao. Ok. Come ti chiami? Non lo Scarde. so. Saluta tu, va. Scarde Pumpkin Claudio Turri. Signori, rispolverate Violent the Shake Dimension e Ma che buttate via 2 settimane della vostra vita. rispolverate Perché è veramente un bel è gioco. di 2 o 3 anni fa, no? Ma io sono impolverato lì in soffitta. Però è bello. Ed è magico. Bello, bello. Ed è magico, Riccardo. Con E quattro Pietro dita Turri, di Vario polvere. Punk, mentre Riccardo va sottofondo, vi saluta. Al prossimo episodio, buia!